questo rafforzamento di Area 15 e l'integrazione con loro è stata frutto di un lavoro che è partito anche prima del Covid, e questa idea di integrazione più forte con il servizio di dipendenze patologiche dell'ASL, in maniera particolare con i loro operatori, da parte di Area 15 era qualcosa che avevamo messo all'interno del potenziamento che il Comune aveva deciso anche in termini di bilancio di fare l'anno scorso, dedicando risorse alla riduzione del danno e risorse invece proprio all'ambito della integrazione con l'azienda sanitaria, con cui soprattutto col Dipartimento di Salute Mentale, con il quale c'è proprio un protocollo che stiamo andando a rinnovare del Comune già da molto tempo, che è anche una specificità credo bolognese molto interessante. Una parte di quelle risorse invece è proprio sul tema promozione della salute. Io ricordo sempre che il ruolo che noi interpretiamo come Comune nell'ambito della promozione della salute, prevenzione e informazione riguarda l'uso delle sostanze, anche se quando dico sostanze ormai bisognerebbe allargare il campo e parlare di tecnologia, di alcol, è molto più ampio quello che intendiamo nell'uso abuso di, diciamo, nel campo delle dipendenze. Le dipendenze ormai sono tante, ce ne sono di nuove. Il ruolo che interpretiamo noi è quello di avere risorse per quanto riguarda questo ambito di promozione della salute su questo primo livello, e, diciamo, sono due dei quattro cardini della lotta verso contro la droga, contro l'abuso e l'uso di sostanze illegali, ed è promozione della salute e riduzione del danno. Area 15, come sapete, è un luogo dove si svolgono azioni di sensibilizzazione alle problematiche appunto derivanti dall'uso di sostanze, inteso sulle dipendenze, inteso in senso largo, percorsi educativo e psicologici personalizzati, delle attività, dei laboratori, la creazione di eventi formativi e informativi sul tema e dei rischi ovviamente dell'assunzione di sostanze esse connesse. Ed è per questo che avevamo iniziato già questo percorso prima. Area 15 è sempre stato aperto in qualche modo anche durante la pandemia, ci siamo reinventati come tutti il tema finché abbiamo potuto, siamo stati in presenza, ci siamo reinventati naturalmente anche qui questa modalità a distanza, che come già avvenuto in altri ambiti è una modalità che in realtà vorremmo mantenere anche poi per il dopo, perché sono modalità che vanno sempre più esplorate, ci può permettere di entrare anche più in contatto a secondo degli ambiti di attività che svolgiamo con le persone. Quello che avevamo cominciato a fare, cioè l'idea di integrarci maggiormente con l'azienda nel realizzare le attività di Area 15, abbiamo pensato appunto di una sempre maggiore non solo integrazione ma addirittura di una loro presenza proprio all'interno di Area 15, figure diverse, psicologo, psichiatra, infermiere, educatori e professionali in ambito educativo e quant'altro. La seconda è questa idea del numero verde per genitori e adulti, che è un servizio di consulenza, un servizio di aiuto, di supporto, perché abbiamo anche diminuito, diciamo, l'età, cioè ci siamo tuffati nel grande mare magnum dell'adolescenza, un bacino che è sul tema sostanze, come sapete, ha abbassato la sua età di ingresso, in maniera particolare sull'alcol, ma anche sul resto, che anche le famiglie vivono momenti drammatici quando si entra all'interno di dipendenze o di inizio di insorgenze, insomma di accesso, diciamo, a quel mondo della dipendenza, spesso disarmati e spesso anche estremamente preoccupati e senza appunto sapere dove poter sbattere la testa. E quindi questo è davvero una scommessa che facciamo, e la pandemia ci sta sollecitando a ripensare i nostri servizi, sta accelerando tendenze che erano già presenti nella nostra comunità e ce le sta mettendo a nudo in una maniera tale che abbiamo bisogno di fare più in fretta quel ripensamento che già prima avevamo compreso. E ne è una prova al servizio di dipendenze patologiche dell'ASG, è proprio pensato fuori dall'idea solo dei vecchi CERT, ma proprio come un servizio che vuole aprirsi anche ad altri ambiti che vedono target diverse, utenze diverse, problematiche diverse.